Potrò essere tirato vivo dalla tomba quando sarò morto. O che non ricorda l'uomo che già prima noi l'abbiamo creato quanto non era nulla. Per il tuo Signore noi li radunneremo con i diavoli e li metteremo inginocchiati intorno alla Gehenna. E da ogni setta tireremo a parte chi sarà stato più insolente verso il clemente, che noi conosciamo meglio di qualunque coloro che più meritano di ardervi. Non vi è fra voi alcuno che non sia per giungere alla sponda e per il tuo Signore cosa decretare. Poi salveremo coloro che saranno stati timorati e vi lasceremo gli iniqui in ginocchio. Quando vengono loro recitati i nostri segni, i miscredenti dicono ai credenti: fra noi e voi chi sono i meglio situati e in miglior compagnia? Ah, quante generazioni abbiamo sterminati prima di loro che stavano meglio di loro in ricchezze e in pompa. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum. Pace sia con voi. Io per 12 anni l'imam del Centro Islamico Culturale di Roma e per il momento, quasi 3 anni, mi trovo a Vienna. Sono onorato per essere qui con voi a Trento per la terza volta. La prima volta nel 74. Merito del mio fratello, lui è cristiano, io sono musulmano, ma siamo fratelli. Il merito di questo fratello che mi ha invitato, quanto hanno messo la campana per tutti i caduti del mondo. All'84 sono tornato qui dopo 10 anni con mia moglie italiana di nome Maria per la stessa celebrazione. E adesso qui, con lo stesso invito di tutti e 3 fratelli, con voi per la terza volta. È una gioia per me di essere a Trento, che ho dei belli ricordi, specialmente io piango quanto ricordo padre Iuri, Giuseppe Iuri, che era per me dentro il mio cuore e penso e credo che io anche dentro il suo cuore. Pace per la sua anima. L'Europa pensa che è un nome arabo. Dio dice nel Sacro Corano: Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Ghurub shams vuol dire tramonto. Ghurub, Europa, sempre c'è la pronuncia diversa. Penso che è un nome arabo che ha dato dagli arabi a Europa. Se guardiamo la mappa del mondo aperta, vediamo che è come un gran uccello con due ali che sono l'Asia e l'America. La testa è l'Europa e l'Africa è la sua coda. Il bacino del Mediterraneo è la sua pancia. Il cuore può essere una volta Roma o Palermo, anche due illustri città, ed anche può essere Trento, un'antica città. Nota nel mondo cristiano, ed è considerata Vienna come il cuore dell'Europa, fra quella orientale ed occidentale. L'Europa rappresenta tutta la civiltà umana, moderna e antica, una raccolta di tutta la civiltà del mondo, ma mai stata unita. Ha vissuto tanti conflitti e invasioni, piccole guerre, e le più grandi guerre mondiali era il campo di battaglia, è sempre stata l'Europa. L'America, sia quella centrale o quella del nord o del sud, è frutto dell'emigrazione europea. Inglesi, tedeschi, francesi, irlandesi, con la loro lingua, o spagnola o portoghese nel sud, e anche italiani, specialmente in Argentina. Nel nord dell'America ha dominato come prima lingua l'inglese e il francese come seconda lingua, ma nel sud o l'America centrale ha dominato il portoghese o lo spagnolo come seconda lingua. E così la metà del popolo europeo emigrò in America cercando nuova vita, nuovo modo di vita, dove c'è la ricchezza, il lavoro e anche la libertà. Gli emigranti sono sempre dalla classe media e la maggior parte di loro possono essere contadini, che sono più attaccati alla fede, attaccati alla religione, attaccati alla terra, alle abitudini rituali e familiari. E così la terra in Europa, la mano di opera più rara e la coltivazione abbandonata. Le tante più guerre, piccole o grandi, hanno costretto l'autorità, la società, a chiamare la donna al lavoro, sia nelle fabbriche o sia nella campagna. Non è casalinga più, perché la donna scesa al lavoro per motivo della guerra, gli uomini vanno alla guerra e la donna deve andare alla guerra. I giovani, i sono la ricchezza della nazione, i sono la speranza della nazione e il futuro, sono più rari e sono passati durante le guerre o emigrati per trovare un posto più sicuro, più fertile, per avere la fortuna, un futuro più sicuro. La ricostruzione dell'economia europea ha costretto le autorità a chiamare lavoratori e operai dall'estero, mano d'opera meno cara, anche se non è qualificata. Le porte dell'immigrazione sono state aperte e la scelta è stata secondo i canali linguistici, che ha molta importanza. Per gli inglesi, le colonie erano tante, dal continente indiano e dall'Africa occidentale, invece i francesi dal sud asiatico e dal nord africano. Invece i tedeschi hanno spalancato le porte davanti ai turchi e sono buoni operai di forza e di tolleranza. Ma l'Italia, che è una penisola nel Mediterraneo, ha aperto le frontiere, la costa italiana, specialmente quella siciliana, davanti ai nordafricani come lavoratori stagionali che possono sostituire quelli che hanno emigrato dal sud italiano verso il nord per lavorare nelle fabbriche e nella industria che è sviluppata prima e dopo la seconda guerra mondiale. Noi sappiamo Mazara del Vallo è un nome arabo, Manzel el-Wali. Gli emigranti in Italia sono pochi, quasi 1 milione, tanti di loro sono stagionali. Di quelli il 20 o più o meno per cento sono di fede musulmana. Invece ci sono quasi 3 milioni di musulmani in ogni di quelli 3 paesi industriali, sia l'Inghilterra, sia la Francia e sia la Germania. Anche ci sono altri, sia indonesiani o turchi, in Olanda, in Nord Europa, e ci sono anche i nordafricani nel Belgio, secondo la lingua francese. Non si può dimenticare la Jugoslavia e l'Albania, dove ci sono più di 6-7 milioni di fede islamiche. E nonostante il comunismo, hanno tenuto la loro fede e tradizioni e abitudini. Il risveglio religioso in tutto il mondo ha dato a loro più fede ed ha rinforzato la loro stabilità e sicurezza. Adesso una grande moschea è stata inaugurata a Zagreb. Nell'Austria, dove io mi trovo, un paese di 7 milioni di abitanti, ci sono quasi più di 100.000 di fede islamica. La maggior parte di loro sono turchi ed egiziani. La composizione dei musulmani in Europa sono quasi di 15 milioni, 20 milioni, non c'è una statistica di abitanti e di emigranti e di profughi politici. I studenti, il corpo diplomatico, uomini di affari, matrimoni misti, si trovano dappertutto, in tutto il mondo. Milioni di persone viaggiano ogni giorno via aereo o per terra, per una breve sosta, che è una cosa indispensabile nella vita quotidiana. L'emigrazione è un fenomeno mondiale, anche gli uccelli emigrano, senza frontiere. Il visto di ingresso, il soggiorno determinato o indeterminato, o emigranti clandestini si trovano dappertutto anche, ma sempre le autorità europee fa il bene per trovare una soluzione e mettere in ordine, secondo le regole esigenti in ogni paese, questi emigranti. Il turismo è un gran affare nei nostri tempi. Il turista è un ospite gradito, benvenuto in tutti i paesi, una grande reddita per l'economia del paese. La Spagna è il più frequentato paese nel turismo, per la sua ricchezza culturale, che è frutta dell'epoca islamica, più il bel clima e la facilitazione. Anche l'Italia, a Roma, come punto religioso per i pellegrini cristiani di tutto il mondo. Con l'inizio di ogni giorno, voltando il viso verso l'Oriente, si vede il sorgere del sole. Che bello! Che bello di vivere una giornata di più dopo questo lungo sonno della notte precedente. Con l'alba della vita dell'uomo, l'umanità era unita, era una nazione, senza discriminazioni, senza divisioni, né politica né religiosa. La diversità sempre esiste e deve esistere, con segno della potenza divina. Ikhtilafu alsinatikum wa alwani. La fotocopia è una cosa nuova. Dio ha creato tutti gli uomini da un maschio e da una femmina per conoscerci, per collaborare per il bene di tutta l'umanità. La diversità è per identificarsi, per conoscersi, perché ognuno avrà la sua identità. Tramite i secoli, tante nazioni sono resi e altri sono scesi, ma l'umanità ha continuato il suo cammino verso l'aldilà, crescendo e moltiplicando. Siamo miliardi. Dio, il creatore, il sostenitore, mai abbandonato l'umanità, ma sempre la guidata verso il bene tramite i suoi messaggeri e i suoi testi sacri. I fari dell'umanità sono stati sempre alti e accesi, e tutti gli individui ed i popoli hanno approfittato per il loro bene. Tutti i messaggeri inviati di Dio hanno guidato i loro popoli verso i valori umani: giustizia, fratellanza, tenerezza, generosità, che prevale l'amore e la pace in tutto il mondo. I più noti di questi messaggeri sono: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Io preferisco di leggere questi versetti dopo. Questo versetto è un invito ai seguaci di queste monoteistiche religioni, come credenti, di unirci e non dividerci, di unificare i nostri sforzi e di collaborare e di essere una fronte unita contro i non credenti, contro i pagani, per difendere, non per obbligare nessuno, la nostra fede. L'Islam, come religione divina, invita i suoi seguaci a combattere solo quelli che li attaccano. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Mai di essere aggressivi e non attaccare gli altri, solo per mettere in stato di difesa. L'Islam, come la cristianità e come il giudaismo, hanno avuto il loro inizio dalla parte orientale, dall'Oriente, dai stessi radici, della stessa fonte, della stessa stirpe, Abramo. I versetti di Abramo sono importanti, li leggiamo insieme in arabo e in italiano. Abramo, il patriarca, i suoi due figli, sia Ismaele o Isacco, il più imponente sono i semi, non la terra, che può essere fertile e non fertile, e così la donna, perché ognuno di loro è destinato per una missione, di essere padre di una nazione, arabi o ebrei, ed ambidue erano uomini della campagna o del deserto, tutto per dire. Perché qui ha tradotto che sono della campagna. L'origine della civiltà, l'Asia Minore, Medio Oriente, la parte più nota è quella asiatica. Gli antichi popoli, Cina, India, Persia ed Arabia, i cui ambidue erano passaggi, punto congiunto tra l'Oriente e l'Occidente. La via della seta, la via dell'incenso, la via delle spezie, rihla tushita e wassai, in due punti diversi in Arabia, ha lasciato Abramo e ha stagionato i suoi due figli. Uno a Mecca, Wadin Ghairi di Zara, e uno in Palestina o in Siria, perché la Siria è grande. I due punti più importanti del commercio mondiale fra l'Asia e l'Europa. Ismaele è stato assimilato tra gli arabi العرب العاربي والعرب المستعرب وقبيلة جرهم أسبوزاتو della tribù di questa tribù di Giorgio. Ha avuto famiglie, ha avuto figli e nipoti. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Invece Isacco non è stato assimilato tra i siriani e i palestinesi ed era sposato dalla sua stirpe ed ambedue sono stranieri, vivono la vita nomada o pastorale o non hanno terra. Secondo la raccomandazione del padre, e noi sappiamo fin adesso moglie tuoi, paese tuoi, ma io ho fatto il contrario, ho sposato italiana. La storia della famiglia di Giacobbe, Israele, e la tolleranza di Giuseppe con i suoi fratelli è ampiamente specificata sia nella Bibbia o nel Corano. C'è una sora completa che parla dei figli di Israele e di Giuseppe e la sua tolleranza. Quanto è arrivata questa stirpe Egitto? Erano meno di 100 persone, ma erano i 12 fratelli, e il padre e la mamma e il nipote. Era una piccola tribù, ma una grande famiglia, e sono stati ben accolti. Prima di tutto sono stati salvati dalla fame e sono diventati civili, vivono nella città, dopo essere vivono come beduini, gente della campagna. Ma come tutti stranieri hanno lavorato, hanno guadagnato, hanno risparmiato, sono diventati ricchi, quasi hanno preso il potere, non politico, ma economico. Questo è molto importante. Hanno dominato il commercio, le professioni, handicraft, ma sempre stati considerati come stranieri, come minoranza che domina la maggioranza senza assimilazione. Il popolo egiziano, la maggioranza, hanno riconquistato e dominato con le loro leggi il potere politico ed economico, e hanno messo tasse di più e confiscati i beni degli israeliti e hanno sfruttati loro. فرعون على في الأرض يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. كومينشات la lotta. La lotta era per il potere sia politico o economico, tra la maggioranza e la minoranza, tra i cittadini e gli stranieri, gli emigranti non assimilati. L'assimilazione dei emigranti tramite i popoli è molto importante ed ha bisogno quasi di un secolo, tre o più generazioni. Gli emigranti in America o in Australia vivono fino adesso, qualche volta come nei ghetti, hanno le loro abitudini, la loro cultura, i loro gusti, investirsi o mangiare. E tanti di loro, discendenti, specialmente quelli italiani in Argentina, tendono di tornare alla loro patria di origine. E tanti tentano di tornare per paura per i loro figli. Dopo questa piccola introduzione, possiamo dire sia l'Islam che la cristianità sono di origine orientale e sono arrivati in Europa uno di seguito dell'altro tramite questo lago che è il Mediterraneo, che sono stati i Fenici i primi navigatori nel mondo, i primi che sono usciti verso l'Atlantico ed hanno dominato il commercio marittimo ed hanno dato all'umanità l'alfabeto, la scienza in cui i testi sacri sono stati scritti, le prime rivelazioni Sohaf Ibrahim wa Musa. Noi come orientali sappiamo che l'Europa, i Romani, sono arrivati in Oriente, hanno dominato il Mediterraneo prima che nasce Gesù, finché sono diventati padroni del mondo, nobili e schiavi stati divisi in popoli. Dal dominio romano fino ad oggi non si è stata una razza pura, e popoli di Mediterraneo sono diventati sudditi romani, di categorie diverse e di classe diverse, e hanno diritti e doveri diversi. E così la cristianità, arrivata in Europa nell'era del dominio romano, e i popoli europei sono convertiti dal paganismo alla fede, alla credenza, al cristianesimo, che ha preso il potere dai romani stessi, i romani diventati cristiani e hanno abbracciato la fede cristiana. L'Islam ha fatto la stessa strada. Arrivato in Europa, tramite gli stessi canali, via terra, tramite lo stretto di Gibilterra, o via mare, tramite la Sicilia e l'Italia, e nell'Asia minore, nell'Asia orientale e di più in Africa, che era quasi pagana. L'Islam, dove è arrivato, ha fiorito con la sua semplicità e tolleranza, essendo un modo di vita e di carattere, colloquo il Coran. Il profeta, quando la moglie Aisha è stata chiesta come era il suo carattere, ha detto che il suo carattere era il Corano. Più di essere un modo di riti e doveri, la vita sociale. Noi sappiamo l'appello della preghiera 5 volte il giorno, e ognun musulmano deve rispondere all'appello, e anche se non va a dire la preghiera alla moschea, può dirla a casa, e deve sempre essere presente e pronto. Le 5 preghiere quotidiane cominciano con quella dall'alba, del mattino, dopo 7 ore o più di sonno. Il corpo riposante, l'energia recuperata, ha bisogno della ginnastica, del movimento. Al posto di dire, quando fanno la ginnastica, deve dire sempre Allahu Akbar con ogni movimento. Anche i bambini di età tenera, 7 anni di età, di scuola dell'obbligo elementare, devono fare la preghiera. La preghiera nell'Islam è per tutte età, vecchio e giovane, ma secondo la sua abilità. La yukallifullahu nafsan illa wusa. Anche il malato ha bisogno di cura, e tante volte la cura non è medicina, ma digiuno e preghiera. Non deve fare fatica se non può digiunare da un pasto a un povero per mangiare. Se non riesce a fare la preghiera in piedi, può farla seduto, anche se è più grave, può farla la preghiera anche nel letto. Ma deve sempre essere con Dio, e Dio sarà con lui. Se in viaggio è permesso dimezzare la raka'at, a posto di dire 4 raka'at, può dire 2 raka'at insieme. La flessibilità del corpo, la circolazione del sangue, la pausa del lavoro monotono, la ginnastica, tutti sono cose indispensabili nella nostra vita. La recitazione del Corano nel mattino aiuta la memoria di essere più sobrio, più sveglio, e la sua mente più viva. Le materie scolastiche più importanti si studiano nelle prime ore del mattino. Conoscere l'Islam è una cosa importante, anche una cosa interessante, sia come una dei 3 monoteistiche religioni, o anche come cultura che ha dato tanto al mondo e specialmente all'Europa, anche come disciplina, come modo di vita. Basta pensare alla parte fisica e igienica per sapere che tramite la preghiera 5 volte il giorno e l'abulo, lavare le mani, lavare la faccia e lavare tutto, contatto con l'acqua, che è la pulizia, freschezza e vita, la flessibilità del corpo dopo il monotono lavoro, la circolazione dal sangue fino alla cima della testa, quanto va sotto la testa per la terra per prostare per Dio. Tutti questi sono indispensabili nei nostri tempi, sia per bambino di scuola che sia per grandi operai o impiegati, anche nelle aziende, danno questi 5 minuti di pausa. Questi minuti di pausa servono per il riposo dell'uomo. Nell'Islam mai i musulmani hanno costretto nessuno a convertire all'Islam, perché Dio dice a Muhammad stesso: la ikraha fid din, dice a lui: laysa alayka hudahum, lasta alayhim bimusaytir, in alayka illa al-balagh, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Nessun musulmano in tutte le epoche è stato costretto a convertire all'Islam, ma lo ha abbracciato volontariamente, con la sua spontanea volontà, e quando convinto non è facile farlo cambiare pensiero. Noi sappiamo il trattato di Hudaybiyah nella storia islamica, Sulh al-Hudaybiyah. Questo trattato era da dire: se un musulmano va ai pagani, non sono costretti di mandarlo indietro. Ma se un pagano vuole convertire all'Islam, i musulmani sono costretti da mandarlo indietro ai pagani per tormentarlo. Abu Bakr e Omar, i due califi che erano i più vicini e amici del profeta, sono spaventati, hanno detto: impossibile, come possiamo dare quella bassa per l'alta, mandare quelli che vengono da noi per essere musulmani, mandarli indietro, e quelli che vanno da noi non sono da tornare indietro? Era il pensiero del profeta, una cosa diversa. Essere lontano dalla tradizione islamica e non praticante è fenomeno normale nella civiltà odierna, perché abbiamo tanto tempo libero e ognuno va a divertirsi e non prende 5 minuti per essere in contatto con Dio diretto. Ogni musulmano è e deve essere un vivo esemplare dell'Islam stesso, nel suo carattere, nella sua condotta. E tramite questa condotta e disciplina si presenta la sua fede agli altri, in modo che conoscono che l'Islam è in pratica, non è in teoria. Le virtù sono il sintomo di tutte le religioni e filosofie del mondo, e il loro scopo è da correggere la condotta dell'uomo verso il bene, per avere una società stabile, solida e cooperativa. L'uomo buono o cattivo presenta la sua persona e l'effetto di sua fede in Dio verso i suoi contari. L'Islam, come tutti sappiamo, è nato a Mecca, è fiorito e stabilito in Medina. Il profeta stesso non è uscito dall'Arabia Penisola. Dopo la stabilizzazione dell'Islam in Medina, il profeta ha mandato delle lettere ai capi di Stato. Anche qualche di queste lettere sono conservate in questi tempi. Ha invitato loro a abbracciare l'Islam, ma le risposte erano diverse. Qualcuno ha strappato la lettera, altri hanno risposto non ha risposto definitiva. Altri hanno ben trattato il messaggero, altri hanno accettato di abbracciare l'Islam. Durante questo periodo l'Islam sembra stabilito, ma immediatamente dopo la morte del profeta tante tribù hanno convertito dall'Islam e tornati pagani e hanno rifiutato di pagare la decima, che è la parte sociale dei poveri. E così la spada è stata resa per la causa della stabilizzazione dell'Islam nell'Arabia Penisola. Grazie alla continua flossa di pellegrini che arrivano ogni anno e tanti stabiliscono là la loro nuova vita e fanno carriera. Prima non c'era visto, non c'era passaporto, basta la parola di fede alla bocca: la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I popoli europei o i paesi europei sono quasi 35 più o meno, quelli orientali e quelli occidentali. Ma di loro sono due, sono euroasiatici, la conchiglia e il mormone subito. I popoli musulmani che sono arrivati in Europa tramite Tarek Ben Ziyad erano misti, siriani, nordafricani. Quelli che sono arrivati in Sicilia erano nordafricani, tranne il mare. Quelli che sono arrivati per l'Europa orientale erano turchi o ottomani. Questi popoli avevano contatto diretto o indiretto con la continente europea prima dell'Islam. Come abbiamo detto, il commercio era. Del tempo dei romani, gli schiavi in Europa erano saraceni. I romani occidentali a Roma, i romani orientali a Costantinopoli. Al tempo del profeta, la penisola non può superare i 3 milioni di abitanti, tutta la penisola arabica. Quasi 100.000 o più hanno assistito al grande pellegrinaggio con il profeta, Hajjat al-Wada, più di 100.000 pellegrini. L'ultimo pellegrinaggio che ha fatto il profeta, da Medina a Mecca. I musulmani a questi tempi erano quasi tutti arabi. Ma c'era l'esempio. Era Suhaib al-Rumi, che era europeo di oggi. C'era Salman al-Farisi, che era esemplare per gli asiatici. E c'era Bilal al-Habashi, che era esemplare per l'Africa. Questi tre nomi sono i più noti nel mondo islamico e sono rappresentanti delle tre continenti. Tanti arabi hanno emigrato per l'Asia e l'Africa, dove la clima è caldo, simile a quello dell'Arabia, e pochissimi credo che sono arrivati in Europa, perché il bacino del Mediterraneo era sempre aperto, la clima in Europa era diversa. La hijra, l'emigrazione, è una emigrazione, emancipazione, non è una fuga. Perché quelli che hanno parlato della hijra del profeta, quando ha lasciato Mecca e è andato a Medina, l'hanno presentata come fuga. Ma in verità non era una fuga. Era un trasferimento, un movimento da un posto all'altro. Lasciare una terra per andare a un'altra terra. Lasciare una società per vivere in un'altra società. Gli emigranti sono dei operai, dei studenti, dei profughi, dei operai stagionali del corpo diplomatico, gli impiegati di organizzazioni mondiali, per esempio il FAO o l'IFAD o l'OPEC. Sono in transito, in passaggio, sono i turisti, qualche volta i zingari, arrivi clandestini e anche ai nostri tempi questi intellettui che hanno studiato e hanno preferito di rimanere in Europa e non tornare al loro paese. La presenza islamica in Europa è merito di gli interessi colonisti. Noi sappiamo la Légion étrangère en français. Nel mio paese, nel Libano, durante il dominio francese fra la prima e la seconda guerra mondiale, i soldati là erano marocchini e senegali, sia dell'Africa, Nord Africa, ossia dell'Africa, due popoli musulmani prima della seconda guerra mondiale. Questi, il giorno della festa, erano di andare alla preghiera con il loro uniforme nella moschea grande, erano da presentare l'Islam nel loro cuore e andare a fare la preghiera con tutto il popolo. Il loro flusso alla moschea era grande, si manifesta durante la festa di Ramadan o quella di Bayram, la festa del sacrificio, con il loro uniforme e i pesanti stivali. Sempre quelli che arrivano sono mano di opera meno cara per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, e studenti universitari che vengono per studiare secondo la loro lingua, inglese o francese. Anche tanti di loro avevano borse di studio per incoraggiarli ad andare e studiare. La prima guerra e la seconda guerra mondiale hanno avuto un effetto verso il mondo islamico. L'impero ottomano era dominante del mondo islamico. La prima guerra mondiale ha liberato questi popoli dall'impero ottomano, ma sono arrivati i francesi e inglesi. E così, come dice in inglese, from the pan to the fire, dalla padella sono caditi nel fuoco. La maggior parte del mondo islamico e quella parte dell'Europa oggi sono arrivati, i turchi sono alle porte di Vienna 300 anni fa. La seconda guerra mondiale ha fatto indipendenza, ha dato l'indipendenza a tanti paesi che erano sotto il dominio coloniale sono diventati indipendenti. Allora la guerra stessa ha dato un effetto. Qualche giorno fa ho letto nel giornale che il funerale dell'imperatore Hirohito sarà assistita da tanti capi di Stato asiatici e altri. Ma quelli asiatici hanno detto che hanno ricevuto i giapponesi come liberatori del loro popolo, dal colonialismo e dal dominio. Allora non hanno pensato che questi giapponesi, quando sono arrivati un giorno in tanta parte dell'Asia, durante la seconda guerra mondiale, che arrivano per prendere la terra o prendere o dominare il popolo, ma l'hanno considerato come salvatori che li hanno salvati dal dominio europeo o americano. L'Islam come disciplina in vita è sempre insistito, in una forma o l'altra, di essere con la promessa di avere una vita bella ed eterna. Tutti i comandamenti sono regole che dirigono l'uomo verso il suo bene e la sua salvezza, la sua bontà, sia nel mangiare, ossia nel bere, ossia nel lavorare e collaborare, come vestirsi, anche come dormire, anche per la parte igienica e comune. Nell'Islam le opere sono secondo la loro intenzione, non secondo il loro risultato. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Il Corano dice anche: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Non potete chiedere ricompensa se non è l'opera fatta per amore di Dio. Lui chi ricompensa. C'è tanto da dire, ma solo voglio concludere con leggere versetti del Corano in arabo e in italiano, se mi permette. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dio difende i credenti. Dio non ama i traditori ingraditi, coloro che combattono perché è stato fatto loro torto, vi sono autorizzati e Dio è ben capace di sostenerli. Coloro che sono stati costretti ad uscire dal loro paese senza alcun diritto, ma solo perché dicono il nostro Signore è il Dio, che se il Dio non contenesse gli uomini, gli uni per mezzo degli altri, quanti monasteri e chiese e sinagoghe e moschee sarebbero distrutti in cui viene menzionato il nome del Signore? Certamente Dio assisterà chi lo aiuta. Egli è forte e potente. Sono coloro che, se insediamo solitamente nel paese, eseguono la preghiera, corrispondono l'obolo, ordinano il commendevole e vietano il riprovevole, e a Dio appartiene l'esito delle cose. Vi ringrazio e posso dire che se c'è qualche domanda religiosa, non politica, non filosofica, dell'Islam stesso, io sono pronto a rispondere. In poche parole, le mie povere. Abbiamo sperato anche che ci fosse dato una certa idea dell'attuale presenza dei musulmani nei vari paesi d'Europa. È scritto tutto pronto, ma io lo dico oralmente. Come abbiamo detto, la lingua ha sua importanza. La lingua ha la sua importanza perché quelli che si trovano in tre paesi, che sono la Germania, la maggior parte sono turchi, che si trovano in Inghilterra, la maggior parte sono asiatici ed africani, e quelli che si trovano in Francia sono anche asiatici ed africani e nordafricani. In ogni di questi tre paesi ci sono 3 milioni di abitanti musulmani. Tanti di loro hanno la cittadinanza, altri di loro sono emigranti. Noi sappiamo che la prima moschea costruita in Europa è quella di Parigi, l'Istituto di Parigi, nel 1926. Sappiamo che si trova tante moschee in Europa, e quella di Roma è l'ultima, che speriamo che sarà inaugurata a luglio quest'anno. Ho partecipato alla messa, alla posa della prima pietra nell'85, e dopo sono trasferito a Vienna. A Vienna abbiamo una moschea e abbiamo tanti luoghi di preghiera che accolgono i fedeli. Questi luoghi di preghiera sono aperti tutto il giorno e sono autosufficienti. Hanno o ricevono aiuto da qualche parte, ma sempre dipendono al loro lavoro, al contributo dei fedeli, e là qualche di loro danno il pasto per gli operai che possono mangiare là con basso prezzo il sabato e la domenica, e qualche di loro danno la possibilità per i bimbi di andare là e studiare il Corano, perché vanno alle scuole austriache, e nelle scuole austriache sempre c'è l'ora di religione. Anche i musulmani hanno questa ora che devono assistere e gli insegnanti sono quasi 100 o di meno di insegnanti per insegnare la religione islamica nelle scuole austriache e sono pagati dal governo austriaco. Nella moschea nostra vengono tanti gruppi, tanti di loro sono studenti delle scuole diverse, con i loro insegnanti di religione e vengono per vedere la moschea e noi li accogliamo, ci sediamo insieme, facciamo questo colloquio e quello dialogo, hanno delle domande, gli diamo delle risposte, visitano la moschea, sanno tante cose della nostra attività e dopo vanno ben accolti come sono benvenuti. In Bruxelles anche c'è una grande moschea e là c'è un istituto per gli imam che vogliono essere imam in Europa. Vanno là per studiare 2 anni, possono studiare per 4 anni, dove prende una diploma e può essere un imam qualificato per proporre l'Islam. E speriamo al più presto possibile di avere anche noi a Vienna un istituto per preparare l'imam di lingua tedesca, perché in Germania, in Austria, in Olanda, in altra parte della Svizzera c'è la lingua tedesca che ha bisogno di imam qualificato che può guidare la preghiera. Tanto da dire, ma uno deve dialogare più di me. Nessuno può liberare del Corano, perché il Corano è la parola divina, la parola di Dio. E vi consiglio qui, non dico di essere, di convertire dalla cristianità all'Islam, ma di leggere il Corano. È tradotto da italiani, sono 4 diverse traduzioni, tradotto di italiani. Ma leggete il Corano e riflettete, come ha detto Padre Santo. Il Corano è un libro sacro. Non è necessario di convertire, ma il Corano è la parola divina che Dio ha conservato. Non è un essere umano che può liberare o cancellare o cambiare neanche una parola. Io ho portato con me un nastro della preghiera di Eid al-Adha e la preghiera di Eid al-Fitr e lo lascio per l'istituto. Forse avrete un giorno la possibilità di vederlo. Per la prima volta nella storia quasi 5.000 persone erano alla preghiera all'aperto della festa. La maggior parte di loro erano turchi. I bambini loro non studiano l'arabo come lingua, ma studiano il Corano come libro sacro di religione. E se qualcuno di voi è stato recentemente in Turchia, in qualunque tempo, vede le moschee adesso piene e la gente tutta ha rifiutato di mettere questa, la girano e quanto fanno la preghiera, e tanti di loro hanno il cappello bianco che è di origine cinese fatto in Cina e lo mettono sulla testa per coprire la testa quando vanno alla preghiera. Il popolo turco è un popolo credente, un popolo di fede, è sempre stato con il Corano. Mi allaccio con l'obiezione. All'obiezione fatta, alla domanda. Libera dal Corano, non certo in senso religioso, intendevo proprio in senso liberarlo da questa istituzione. L'affermazione era: Ataturk ha liberato il popolo dal Corano, non in senso religioso, non si può liberare il popolo dalla voce di Dio, dalla rivelazione divina sotto il profilo religioso, vedeva forse sotto il profilo politico, cioè delle prescrizioni politiche, sociali che il Corano comporta. E la mia richiesta, la mia domanda è questa: leggo, riporto quindi il pensiero di altri. A differenza di altre culture con le quali l'Europa convive, La cultura musulmana si pone in alternativa. Ovunque, anche là dove essi sono minoranza, i musulmani chiedono ai governi l'adozione della legge coranica per i propri membri, creando così un vero apartheid di vario religioso. Questo dice questa rivista e porta come prova il fatto che il mondo islamico non ha riconosciuto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ha affermato in contrapposizione, quasi contro altare, la Carta Islamica dei Diritti del Popolo. Per conservare il principio della comprensione, diciamo confusione noi cristiani, tra potere politico e potere religioso, cioè prescrizione religiosa e prescrizione sociale, economica. Non è questo forse un'antica? Non può creare però città europee la presenza di questo mondo musulmano non chiuso, legato alle sue prescrizioni di carattere politico, sociale, non quelle religiose che sono comuni o quasi, insomma, potrebbero essere tali. Ecco la domanda. È un ostacolo questo? Il mondo musulmano accetterebbe quell'apertura? Le ho accennato che qui le scuole sono aperte, le ore di religione sono fatte dai musulmani pagati dai governi nostri, dai governi occidentali. Nel mondo musulmano si farebbe altrettanto? Cioè si pagherebbero gli insegnanti che insegnano il credo cristiano? Perché ci sia colloquio, bisogna che ci sia comunione, comunanza, non si può colloquiare solo in un senso. Ecco questo principio. Prima di tutto, quello che consente, io sono l'uomo religioso, non sono filosofo, non sono teologo, non sono politico. Io voglio domande che mi chiedono dall'Islam stesso. Se ci sono delle domande, io sono pronto di rispondere. Altrimenti queste cose sono in tutto il mondo, si trovano, che hanno tante risposte. C'è qualcuno che è pronto di rispondere e l'altro di rispondere. Io sono un uomo religioso. Se c'è delle domande che appartengono di chiedere dalla religione islamica, sono pronto di rispondere chiaramente. Sull'Islam stesso, non di più. Io non sono venuto qui per parlare, sono venuto qui invitato gentilmente dal Monsignor Roger per suggerimento del padre Basette Sani. Quindi sono venuto per imparare, anche se sono anziano e vecchio. Perché devo imparare? Io sono vissuto 35 anni in mezzo al mondo musulmano e devo dire che ho avuto dei grandi esempi di gente di preghiera, di gente che sa comprendere e sa vivere in mezzo ai cristiani. Però attualmente vedo un accentamento di musulmanesimo. Noi avevamo, giù dove ero io, in Libia, in Cirenaica, le scuole, io che ero il direttore allora delle scuole, avevo permesso ai nostri cristiani di poter partecipare all'ora di religione, di musulmanesimo, del Corano, che veniva fatto da un musulmano. Hanno detto no. Come c'è questa? Per noi è possibile imparare il Corano e per quelli del Corano non è possibile imparare il Vangelo? Mi sembra che ci sia un po'. Io, come dico, ammiro per il senso della preghiera, li ammiro per tante cose, ma adesso c'è stata un'accentuazione, direi, esagerata riguardo del cristianesimo. Mi permetta che lo dica. Non vorrei dirlo perché non vorrei accentuare, aggravare la situazione di quelli che ancora vivono, perché io sono stato allontanato dal paese, non so ad amarlo anche se sono stato cacciato via. Ovviamente io non ho nessuna risposta miracolosa, Ecco, vorrei soltanto dare una traccia di possibile risposta alle domande che sono state fatte l'imam Hadara. Ovviamente qui non siamo più sulla sfera religiosa, ma cadiamo, diciamo, sul prescritto, sul sociologico e perché non sul politico. Però quello che voglio dare è proprio un tentativo di risposta possibile a questi problemi, che sono dei problemi enormi, che non sono più dei problemi veramente religiosi, ma sono problemi di diritto internazionale e anche di diritto dell'uomo. Ecco, secondo me non c'è una risposta possibile, una risposta possibile, però ci sono delle tracce che ci permettono di dire che non possiamo veramente mettere alla pari, ecco, non si tratta di fare una gerarchia delle culture, ma di osservare veramente i fenomeni culturali. Ecco, non si possono mettere alla pari la cultura occidentale di matrice cristiana e la cultura orientale di matrice islamica, se non prendiamo in conto dei fenomeni che hanno completamente rovesciato le tematiche culturali. Se per esempio io non prendo in conto il fatto che a partire dalla rivoluzione francese c'è stata una rottura tra la ragione umana e la ragione divina, il che ha cambiato totalmente la sfera dell'attività umana sul piano sociopolitico e sul piano socioreligioso, non posso fare un paragone con ciò che è stato e ciò che non è avvenuto nella religione islamica, cioè tutto quel fenomeno dell'eicismo, eccetera, evidentemente non sono avvenute nella cultura islamica, perché hanno osservato delle rotte culturali che sono totalmente, totalmente diverse. Però purtroppo c'è questo fenomeno di una civiltà sempre più planetaria, ecco, e che fa che i problemi oggi sono interconnessi, che lo vogliamo o no, ma dei fenomeni come per esempio la dichiarazione dei diritti dell'uomo nascono da una matrice culturale ben precisa che ha le sue origini nella rivoluzione francese, già dunque da un diritto che si stacca, forse è religioso, ma comunque da un diritto che si stacca dalla sfera religiosa, e qui cadono i problemi. Evidentemente alcuni stati musulmani non possono firmare, io non faccio nessun giudizio, ma non possono firmare, perché questo diritto è di matrice laica, non più religiosa, è un diritto considerato umano, secolarizzato, non più un diritto religioso. Io non giudico, ecco, ma mette in rilievo questi problemi, che sono dei problemi evidentemente grossi. E poi per il fatto che veramente quasi tutti i paesi musulmani cercano di applicare la legge islamica, però bisogna capire un po' perché. Perché è ancora un mondo in cui la sua sfera di riferimento è parte dal Corano, ecco, e perciò non è possibile immaginare per il momento, almeno, andare al di là. Ecco, quello che voglio dire, un fenomeno che mi sembra molto importante, ecco, che nella cultura occidentale abbiamo un pensiero, già da Cartesio in più fino a Nietzsche, bisogna prendere per esempio in considerazione questo fatto che Nietzsche arriva a dire che Dio è morto, cioè questo è un simbolo, ma è un simbolo di tutta una cultura occidentale che ha, diciamo, operato due binari, un binario religioso e un binario più staccato dal religioso. Diciamo che il pensiero occidentale è un pensiero che può, diciamo, riferirsi al di là della sfera del religioso. Ciò non è avvenuto ancora da Islam. Si è avvenuto in modo individuale, alcuni pensatori, alcuni scrittori, ma non come seno globale di sfera di riferimento della società. Perché se noi non prendiamo in considerazione questi due fatti, veramente si crea una confusione qui e non ci capiamo più. Ecco. Evidentemente il problema nasce che oggi sono due civiltà a confronto che partono su delle matrici che talvolta sono diverse. Ecco. E penso che l'incontro ha senso, quindi giustamente noi analizziamo questi problemi. Giustamente l'altro giorno è stato detto che noi qui ci incontriamo cristiani e islamici e lo facciamo proprio col cuore aperto, con viva amicizia, lei lo ha mostrato prima. Quindi più ancora che guardare a questo passato e a queste forme che vengono ereditate, si capisce, da culture che però appartengono comunque al passato, noi speriamo che anche in nome della validità delle nostre fedi religiose, nelle quali crediamo profondamente, che possa auspicare, non si deve offendere né il Vangelo né il Corano, un mondo diverso in cui gli incontri avvengano. Io voglio fare soltanto un esempio. Roma, lei sa che cosa rappresenta per la cultura cristiana e per la fede cristiana, per la fede cattolica in modo particolare. A Roma adesso c'è la moschea. Lei pensa davvero che giunga il giorno in cui alla Mecca si erige una chiesa grande quanto San Pietro? Quando gli spiriti religiosi, veramente religiosi, saranno così liberi da dire, come a Roma c'è la moschea, così alla Mecca ci mettiamo anche la Basilica di San Pietro e tutti i credenti possono pregare il loro Dio in libertà, allora saremo veramente religiosi. Mi chiamo Paolo Barrera e sono di Torino. Io ritengo, sono cristiano, e ritengo di capire però perfettamente le ragioni dell'imam e dell'altro professore che ha parlato dopo, perché pensiamo esattamente allo stesso modo, con questa differenza. Io sono cristiano e ritengo che la rivelazione di Dio arrivata attraverso Mosè e Gesù sia completa. I musulmani no, perché nell'epoca in cui l'umanità aveva bisogno di leggi è sorto Mosè e ha insegnato, perché l'umanità era piccola, ha insegnato le leggi. Poi è giunto nell'epoca dell'adolescenza Gesù a parlare di amore, ma nell'epoca, e Gesù sarà il più grande dei profeti, anche sa, però nell'epoca della maturità è giunto il profeta, Maometto, a essere il sigillo della rivelazione divina. E io come cristiano questo non lo credo. Cioè, per me la rivelazione è compiuta con Gesù, quindi il problema della sacralità del Corano, per me che sono cristiano, si pone seriamente. Però capisco la posizione islamica che riconosce, riconoscendo nel Corano la completezza della rivelazione, dice noi abbiamo ragione e gli altri hanno torto. E quindi la verità ha dei diritti che l'errore, di cui l'errore è privo. La questione è sempre questa, come prima osservazione, che è vero sì che la verità ha dei diritti di cui l'errore è privo, però mi sembra, ma lo dico appunto perché sono cristiano, che l'errante abbia gli stessi diritti di colui che è nella verità, perché l'errante è una persona che ritiene di aver visto giusto anche lui. E quindi i diritti della persona sono gli stessi, ma lo dico però come cristiano, perché per me i diritti della persona, e in questo non sono d'accordo col professore che ha parlato, non derivano dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma derivano dalla filiazione universale di Dio. Siccome Gesù è il primogenito di molti fratelli e io sono suo fratello, ho gli stessi diritti di tutti gli altri uomini e anche gli stessi doveri. Perciò non c'è bisogno della rivoluzione francese, che tra l'altro presenta un cristianesimo ridotto, come del resto anche il marxismo. Non c'è bisogno di queste dichiarazioni filosofiche perché gli uomini abbiano dei diritti di parlare e di predicare. La seconda osservazione che vorrei fare è questa. Questa però la faccio alle domande precedenti che mi sembravano non laicistiche, ma certamente ispirate allo spirito laicistico. Noi in Occidente, e in particolare in Europa, non ci rendiamo conto che le dichiarazioni dei diritti dell'uomo non si fondano sulla ragione, perché nessuno mi può dimostrare razionalmente che tutti gli uomini sono uguali, ma si fondano su una matrice cristiana rinnegata la quale è poi difficile sostenere la uguaglianza degli uomini. E se Nietzsche ha firmato un libro che è intitolato Dio è morto, Dio ha firmato un fatto che è intitolato Nietzsche è morto. Ecco, io mi permetterei sull'argomento di richiamare la Dignitatis Humanae, che fonda i diritti dell'uomo sull'uomo e non tanto sulla Bibbia. Quindi la differenza, secondo me, non è fra due rivelazioni divine di diritti umani, ma fra i cristiani il fondamento dei diritti dell'uomo è nella natura dell'uomo stesso. e invece nel mondo islamico è di derivazione coranica, come diceva Stiano.